24 mattino di Alessandro Milan. Buongiorno cari ascoltatori, 7:21 minuti, siamo qui in diretta fino alle 9. Oggi avremo un ospite d'eccezione che ci verrà a trovare in studio, il maestro Ermanno Olmi, regista, che oggi esce con il suo ultimo film, Il villaggio di cartone, ma l'abbiamo chiamato anche per discutere, e lo farà con il nostro Oscar Giannino, di una frase che ha detto Ermanno Olmi e che poi sono temi sviluppati anche nella sua ultima opera, nel suo ultimo film. Ha parlato di ricchezza e ha detto: essere super ricchi, essere straricchi sopra un certo livello è un crimine, perché si sottrae ricchezza a molti. E allora parleremo di questo. Che ne pensate? Anche il tema del nostro sondaggio, questa domanda che ha, questa jacuzzi che ha fatto Olmi: essere straricchi è un crimine perché si sottrae ricchezza a molti? Votate su Radio24.it, ma poi noi ne parleremo, faremo delle riflessioni sul tema della ricchezza, sui valori, sulla redistribuzione della ricchezza in Italia. Questo dalle 8:20. Intanto andiamo a vedere che cosa ci propongono i giornali in edicola. È venerdì 7 ottobre, le aperture dei quotidiani sono diversificate, vediamo qualche titolo. BCE in campo, volano le borse, così apre il Sole 24 Ore. C'è da dire che tutti i quotidiani mettono una fascia di titolo in alto dedicata alla scomparsa di Steve Jobs. Il Sole: addio Steve Jobs, il genio che ha cambiato il mondo. Così sul Corriere: addio Steve, ingegnere dei nostri sogni. Ma il titolo principale a centropagina è: governo manovre nel PDL. Per Repubblica invece proprio la vicenda Jobs, la morte di Jobs. Grazie Steve, ci hai cambiati. Questo è il titolo di apertura. La Stampa: giustizia, attacco alle procure, Conti, torna l'idea del condono. Mentre il Giornale: un'altra casa di scaiola, solite giravolte democristiane. Questo è il titolo. Il Manifesto apre su Steve Jobs, immortalato in una delle sue conferenze. Il titolo è: nell'altro mondo. Bossi, elezioni prima del 2013, così apre il Messaggero. Mentre Libero ha una vicenda che riguarda la RAI: sprechi della RAI, record olimpico, un esercito a Londra con 170 inviati. Il Fatto Quotidiano invece apre con questo titolo: il super testimone di Berlusconi è uno stupratore. Lo statista che vuol trasformare il PDL in forza gnocca chiama a sua difesa nel processo Rumi un uomo condannato per violenza carnale di gruppo su una quindicenne. E insomma, il piatto è questo. Intanto, da cosa voglio partire come segnalazioni? Il primo è il racconto di Sergio Rizzo sul Corriere della Sera, pagina 31. Quei racconti che vanno a sfruculiare nella casta politica e che vi mettono ovviamente sempre di buon umore. Quell'unico consigliere su 71 che non ha doppio incarico. Questo è il titolo alla Regione Lazio. Bonus fino a 1.400 euro al mese. Ebbene sì, racconta Sergio Rizzo come un soldato giapponese sull'isola deserta. Antonio Cicchetti resiste granitico, è l'unico nel Consiglio regionale del Lazio a non incassare il bonus che spetta a chi ha un altro incarico. Unico su 71. A dire la verità, anche lui un incarico supplementare ce l'aveva, assessore alla cultura, poi la Polverini ha dovuto far entrare in giunta l'UDC. E l'ex nazionale alleato Cicchetti è stato dimissionato. Gli è andata di traverso. Così ora si deve accontentare dell'unica paga, che comunque non è poco, anzi è quasi da far schifo, per usare sue parole. Un'indennità netta di 4.252,35 euro, più 3.503 euro di diaria. Totale 7.755 euro e 46 centesimi puliti. Senza contare altre voci, come i generosi rimborsi chilometrici per l'uso dell'auto propria. Dunque, un consigliere regionale guadagna 7.755 euro, questo in Lazio. Ma lui è l'unico, racconta Sergio Rizzo, a non avere un doppio incarico. Perché? Perché ci sono 20 commissioni alla Regione Lazio, due in più rispetto alla Camera dei Deputati, e ogni commissione ha un presidente. E quindi ci sono 20 presidenti, ai quali spettano come indennità di presidenti 891 euro in più, puliti al mese. così la busta paga sale a 8.666 euro. Poi c'è ovviamente la presidente del Consiglio, Mario Abruzzese, c'è il presidente della Giunta, Renata Polverini, ci sono i due vicepresidenti del Consiglio, ci sono i tre consiglieri segretari. Allora facciamo i conti: 20 presidenti di commissione, 38 vicepresidenti, 58 il totale, poi il presidente del Consiglio, i tre segretari, due vice segretari, si sale a 64, poi ci sono 15 capigruppo, attenzione i capigruppo, molti dei quali sono capigruppi di gruppi formati da uno, da se stessi, questa è la straordinaria peculiarità, ci sono gruppi formati da uno, gruppi formati da uno che si riuniscono loro stessi uno e prendono per questo l'indennità di capogruppo di se stessi ovviamente. Insomma, questa è la vicenda. Alla Regione Lazio, bonus fino a 1.400 euro al mese, pagina 31 del Corriere, l'unico sfigato, si può dire, Antonio Cicchetti, che è l'unico tra 71 consiglieri che non ha un'indennità aggiuntiva, si deve accontentare di 7.755 euro netti al mese. E poi vi segnalo dal Giornale e dal Giorno, è tornata Vanna Marchi. Vanna Marchi sta scontando in realtà una pena in carcere, 9 anni e 6 mesi per associazione a delinquere finalizzata alla truffa, ricordate la televenditrice più famosa, ma di giorno, al regime di semi-libertà, di giorno esce al mattino dal carcere di Bollate, va in un bar in via Napo Torriani a Milano, a due passi dalla stazione centrale, il titolare del bar è il genero, vale a dire il fidanzato della figlia, che sta scontando invece gli arresti domiciliari, e serve cappuccino e brioche. Vanna Marchi torna a vendere al bar. Questo è il titolo di pagina 23 del Giornale. Gabriele Villa, c'è anche la foto di Vanna Marchi che dice: per carità, non mi mettete in difficoltà, non posso dire niente, quasi implorante ai giornalisti. Anche sul Giorno, Vanna fa le torte al bar, la nuova vita della Marchi, ha ottenuto la semi-libertà, ora lavora dietro al bancone, ci sono anche qui delle foto che la immortalano mentre entra in questo bar, prepara torte, sta alla cassa. Il Giornale giura che il suo tiramisù è anche squisito e poi lo vende. Certo, altri tempi da quando vendeva gli sciogli panza. Allora, alle 7:32 minuti, eccoci cari ascoltatori, nella prosecuzione della lettura dei giornali. La politica ieri ha regalato alcuni aspetti, come dire, tra il colore, il trash e il volgare, e alcuni aspetti invece decisamente più seri. Allora vogliamo iniziare dai primi. Vabbè, lo sapete, è la battuta che peraltro ha già fatto il giro del mondo sul premier Berlusconi, che ha detto è il caso di cambiare il nome del partito. La questione peraltro ritorna, Berlusconi già varie volte ha detto non gli piace per esempio il fatto che venga chiamata la PDL, cioè invece il Popolo della Libertà, ma da molti è chiamata la PDL. Però poi ha fatto questa battuta, penso non a un Forza Silvio ma a un nome che avrebbe più successo e mi dicono sia Forza Gnocca. E insomma, questa battuta ha fatto suscitare un putiferio politico. Ora la maggioranza dice dall'opposizione non sanno neanche sorridere, non sanno ridere di una battuta. Battuta che, ripeto, ha già fatto il giro del mondo. Racconta, per esempio, il Corriere della Sera, pagina 13, siti scatenati in tutto il mondo. L'Herald Sun, Go Pussy, questo è il titolo, Berlusconi trova il nuovo nome. Oppure in Francia, Alain Minet sull'Observateur, oppure in Germania, però qui mi scuso per la pronuncia, Vorwärts Müsli sul quotidiano Bild, che inizia l'articolo con i lettori dicendo: cari lettori, è tutto vero. Questa è la premessa, e poi insomma racconta questa vicenda del Forza Gnocca. Poi insomma, ecco, dicevo che c'è, oltre alla battuta, al volgare, c'è anche il volgarissimo che è andato in onda ieri in Parlamento, quando una deputata del Partito Democratico denuncia l'onorevole Codurelli: ho preso la parola, eccetera. A un certo punto la situazione è degenerata e dai banchi della Lega è partito un "ma vai a farti scopare che è meglio". Questo è un racconta anche Libero a pagina 9, racconta questa testimonianza di Lucia Codurelli, tanto che l'Unità mette insieme questa vicenda da forza gnocca a fatti scopare. Ecco, archiviato diciamo l'aspetto che giudicate voi come volete della politica di ieri, con lo Iena però di oggi sulla stampa: delegazioni nell'ambito delle consultazioni per il nuovo governo. Oggi il presidente Napolitano ha ricevuto la delegazione di Forza Gnocca. Sapete che ci sono, no, le consultazioni per fare il governo. Ecco, questo potrebbe succedere, chissà, ma è una battuta ovviamente, in futuro. Ebbene, le vicende invece più serie legate alla politica sono legate a che cosa? Al decreto sviluppo, che in realtà fanno sapere tutti i quotidiani slitta. Questo è il titolo anche del Sole 24 Ore, l'articolo che trovate a pagina 10. Il decreto sviluppo slitta ancora, varo il 20 ottobre. Racconta Marco Rogari, a pagina 10: si allungano i tempi per il varo del decreto sulla crescita. Alla fine di una giornata fitta di riunioni alla Camera con Berlusconi, Tremonti e altri ministri, poi a Palazzo Grazioli col Premier e lo Stato Maggiore del PDL, ha preso corpo l'ipotesi di rimandare al 19-20 ottobre, dopo il Consiglio Europeo di Bruxelles, il via libera al provvedimento, che era previsto in un primo tempo il 13-14 ottobre. Allora, che cosa succede dietro questo? Beh, ieri Tremonti e Berlusconi, che sapete da qualche giorno sono dati ai minimi termini i rapporti storici, in realtà si sono presentati a braccetto in Parlamento, hanno bevuto un caffè insieme, hanno bevuto alla buvette un bicchiere d'acqua, insomma tutto bene, tutto amore d'accordo. Lo stesso Berlusconi ha detto: mi fanno sorridere tutte queste polemiche, come vedete non c'è nulla di polemico tra di noi. La realtà, almeno raccontata da retroscena di giornali, è ben diversa. Berlusconi e Tremonti restano distanti, questo racconta pagina 11 sul Sole 24 Ore Barbara Fiammeri. Rimandati i nodi di Banca Italia, rimandato il tema dello sviluppo, il Premier teme anche il cosiddetto incidente dal punto di vista politico, e tra poco vedremo anche chi secondo i giornali starebbe tramando riguardo a questo incidente. Sta di fatto che anche a retroscena di Repubblica con Francesco Bei a pagina 3 il titolo è questo: Giulio già prepara la resa dei conti, discutano pure, tanto alla fine decido io. La verità è che il decreto sviluppo, il salvagente che dovrebbe tenere a galla il governo, resta un miraggio, slitterà appunto almeno al 20 ottobre. E l'altra novità è che ad avere l'incarico di gestire questo decreto sviluppo è il ministro Romani. Questo almeno raccontano i vari giornali. Silvio ingabbia Tremonti, questo il titolo di Libero a pagina 5. Il Premier si gioca il futuro della ripresa economica e, per indebolire il titolare dell'economia, affida a Romani il ruolo di coordinatore per le misure sulla crescita. E la stessa analisi politica è vista dal giornale a pagina 3. Con Adalberto Signore: Berlusconi, decreto sviluppo senza Giulio. Il Premier scavalca Tremonti, affidando appunto al ministro Romani il tavolo di coordinamento, e poi rassicura: Scajola non mi tradirà. Ecco, perché questo Scajola non mi tradirà? Perché nel Parlamento pare ci siano voci sempre più insistenti di fronde, cene da parte di cospiratori, di incidenti possibili da fare appunto in Parlamento per cercare di far cadere la maggioranza. Chi avrebbe organizzato, chi si starebbe muovendo in questo senso? Beh, sono indicati dai giornali Beppe Pisanu e Claudio Scajola. Per esempio, si racconta da un paio di giorni di questa cena che Beppe Pisanu ha fatto con una serie di senatori. Oggi il Corriere racconta pagina 15 chi sono: Giustina Destro, Paolo Scarpa Bonazza Buora, Massimo Maria Berruti, Salvatore Cicu, Paolo Russo, Sabrina De Camillis, Roberto Antonione, questi alcuni, ma ce ne sono altri, Ignazio Abrignani, che è un fedelissimo di Scajola. una cena appunto per cercare di raccogliere tutti i malumori, i malcontenti. Il giornale da un paio di giorni titola: ecco, torna la democrazia cristiana. Infatti Paola Di Caro sul Corriere della Sera inizia proprio così: Vittorio Feltri invita a non sottovalutarli, Scajola e Pisanu rappresentano una minaccia seria nell'arte di pugnalare alle spalle, non sono gli ultimi arrivati, sono democristiani. Tra l'altro Claudio Scajola, intercettato da Paola Di Caro, dice: un documento faremo, ma no, non c'è ancora niente di scritto. Certo, è un'ipotesi, non lo nego. E insomma, ci sono appunto le ipotesi su che fare. Pronto un documento che chiede un Berlusconi bis e un nuovo governo allargato ai centristi. C'è invece chi giura no, ci si limiterà alla creazione di gruppi autonomi, chi dice si farà un appello accorato perché si rilanci l'economia col decreto sviluppo sostanzioso e ricco, o magari basterà un incontro con Berlusconi per trovare un nuovo assetto del partito che soddisfi tutti. Insomma, sta di fatto che ci sono delle grandi trame all'interno del Parlamento. Repubblica mette così: la fronda dei 45 parlamentari, quindi sono diventati 45 per Repubblica, tra incontri segreti e raccolta di firme, serve un atto di discontinuità. Intanto, attenzione cari ascoltatori, che cosa rispunta? Rispunta la parola condono. Per la verità anche qui nelle rassegne stampa, lo sapete, ogni tanto è rispuntata in questi giorni. Pare che ieri Berlusconi, arrivato in Parlamento, abbia parlato con alcuni, con tutto insomma il suo gruppo del Popolo della Libertà, e questa parola condono sia rispuntata. Anzi, per il secolo XIX, a pagina 8, la parola utilizzata da Berlusconi è questa: condonone. Faremo un condonone. La confidenza ai fedelissimi in aula. Penso a sanatorie fiscali, edilizie e giudiziarie. Ci sono le riforme e serve un azzeramento. Eccolo qua, si chiama condonone, è lo strumento cui Silvio Berlusconi pensa di ricorrere per racimolare le risorse finanziarie per lavorare al pareggio di bilancio promesso in Europa. Tanto che oggi è molto polemico, pungente il titolo di apertura di Avvenire: un'idea nuova, il condono. Questo in prima pagina. E tra l'altro c'è da registrare, sempre per quel che riguarda la politica, un Bossi che dice: attenzione, non arriviamo al 2013, bisogna fare la riforma elettorale, cioè la famosa porcata, e poi si vota. E c'è un capo dello Stato, il Presidente della Repubblica Napolitano, che ieri ad Aosta ha citato il governo di tregua di Pella. Giuseppe Pella, Italia 1953, presidente del Consiglio, primo governo di transizione dopo la sconfitta di De Gasperi. C'è stata e c'erano state elezioni di rottura, ha detto Napolitano, ci fu bisogno di un governo di tregua, così venne chiamato. Non durò a lungo, è vero, ma servì. Ecco allora che questa citazione da parte del capo dello Stato a un governo breve, di breve durata, di tregua, ma che servì, come riferimento qualcuno ha detto: beh, insomma, è un messaggio, come dire, è quello che serve anche oggi. Insomma, questa è un po' la politica di questi giorni: c'è il decreto sviluppo che salta, o meglio slitta di qualche giorno, e poi c'è tutto questo gran tramare per quel che riguarda quello che succede, e poi c'è ovviamente anche la gnocca. Tra l'altro, a proposito di capo dello Stato in visita in Piemonte, oggi sarà in provincia di Cuneo, racconta la stampa che la compagna di Calderoli, che in realtà è la presidente della provincia di Cuneo, Gianna Gancia, stoppa il blitz antiquirinale. Pagina 7 della stampa, Gianni Martini racconta che molti leghisti erano pronti a mettere anche delle magliette dal titolo con su una scritta: sono un sindaco padano, esisto, in polemica anche col capo dello Stato che di recente a Napoli ha detto parlare di secessione fuori dalla storia, insomma le successive polemiche sulla Padania che sono sorte o si sono rilanciate. Ebbene, la compagna di Calderoli, cioè la presidente della provincia di Cuneo, ha detto e ha fatto partire, secondo la stampa, un ordine a tutte le sezioni, anche magari alle persone, ai militanti della Lega più caldi, a dire: non è assolutamente il caso né di manifestare in questo modo né di contestare il capo dello Stato, colui che ci dovrà firmare il decreto sul federalismo, e dunque è una follia. Nella politica registro anche un'intera pagina di intervista al direttore del Foglio Giuliano Ferrara, intervistato da Fabrizio Roncone oggi sul Corriere della Sera, che ribadisce le solite cose: Berlusconi dovrebbe chiedere scusa, sarebbe un gesto forte, eroico, ma poi dovrebbe contrattaccare politicamente. E Tremonti o si sottomette o se ne va. Questo Giuliano Ferrara, che però racconta il Fatto Quotidiano oggi a pagina 10, dovrebbe essere spostato con Qui Radio Londra. Affonda Rai 1 e Ferrara in crisi di ascolti, spostata a dopo il TG delle 13:30. Questo sul Fatto Quotidiano. Allora, come detto, il Fatto Quotidiano con Carlo Tecce racconta: affonda Rai 1 e Ferrara trasloca dopo il caffè. Radio Londra in crisi di ascolti, spostata dopo il TG delle 13:30. Ma riguardo alla Rai, è l'apertura di Libero che dedica a questo tema il servizio poi di pagina 2 e 3. Questo è il titolo di apertura: un esercito a Londra, sprechi della Rai, record olimpico. È Franco Bechis, il vice direttore di Libero, che firma questo servizio. Riguarda i futuri giochi, l'anno prossimo, i giochi olimpici a Londra. La Rai manderà 170 inviati, occuperanno 5.377 letti al prezzo di 1,2 milioni di euro per fare appena 200 ore di trasmissione. I diritti delle Olimpiadi infatti li ha Sky. Questa è la vicenda raccontata poi a pagina 2 con tanto di dati. In 170 giornalisti per la trasferta di Londra alla Rai, l'Olimpiade degli sprechi. Già fece scandalo nel 2008 il jumbo di inviati operatori Rai che partì alla volta di Pechino. Furono più di 200. A Londra la spedizione sarà appena più contenuta. Per le sole Olimpiadi le stanze singole o doppie, uso singola, richieste saranno 170 nei 18 giorni di punta, dal 26 luglio al 12 agosto. Il totale di spesa solo di alberghi di 1,2, solo gli alberghi, ripeto, 1,2 milioni di euro. E per fare 200 ore di diretta, mentre Sky, che dovrà fare 1600 ore di diretta, manda poco più delle persone inviate dalla Rai. Insomma, si concentra su questo che Libero denuncia, è un chiaro spreco, il giornale oggi. Tra l'altro, io voglio tornare sul Fatto Quotidiano, l'avevo citato in apertura, una vicenda che trovate in prima pagina, un'apertura diversa rispetto agli altri come quella di Libero, e l'apertura del Fatto Quotidiano è questa: il super testimone di Berlusconi è uno stupratore. La vicenda raccontata da Ferruccio Sansa e Davide Vecchi a pagina 2 racconta la storia di Giampaolo Traversi. Il titolo è a pagina 2: Rubi, il caimano e la difesa con stupro. Giampaolo Traversi, che è stato condannato per violenza su una minorenne, una modella di 15 anni qualche anno fa, è stato citato da Silvio Berlusconi tra i testimoni della difesa nel processo Rubi. E raccontano Sansa e Vecchi questa vicenda, appunto: la sua vittima, una modella di 15 anni imbottita di coca non cola per indurla a un rapporto di gruppo. E tra l'altro ci raccontò la famiglia, che era stato assolto in Cassazione, ma invece dalle carte in possesso del Fatto Quotidiano emerge una realtà diversa. Per quella vicenda Traversi fu condannato a 2 anni e 8 mesi, condanna definitiva dopo la pronuncia della Cassazione del 1 giugno del 2011. Questa è la vicenda raccontata dal Fatto Quotidiano. Allora, sul Sole 24 Ore c'è l'apertura dedicata invece a che cosa? Alla BCE in campo. Volano le borse, un'altra giornata di rialzi sulle piazze europee dopo che ieri lo scudo sulle banche e sui titoli di Stato è stato deciso dalla BCE. Infatti racconta Alessandro Merli a pagina 3: la Banca Centrale Europea è andata in soccorso delle banche promettendo nuove immissioni di liquidità illimitata, mantenendo comunque invariati i tassi di interesse, e quindi questo soccorso alle banche ha dato sicuramente energia e fiato alle borse. Tra l'altro, vi ricordo, per quel che riguarda invece una notizia della scuola che abbiamo sentito anche in, nel giornale radio, insomma la scuola che oggi alcuni ovviamente sciopereranno. La vicenda riguarda questo concorso, definito concorso beffa, come abbiamo sentito anche GR24, relativo ai presidi. Presidi, concorso beffa, errori in un quiz su 5 e la Gelmini li ritira. Questo è il titolo a pagina 24 di Repubblica, ma anche l'unità presidi 975 quesiti sbagliati e il PD dice concorso da rinviare. Così anche sul Fatto Quotidiano una pagina dal titolo concorso struccato. Il Ministero dell'Istruzione ammette 1000 domande errate nella selezione per presidi. E insomma è un pasticcio dal quale chissà come se ne uscirà. Il Ministero dell'Istruzione, racconta Corrado Zunino, su Repubblica, non ne infila una, risposte sbagliate al concorso per presidi, per esempio il titolo delle lettere di Seneca era sbagliato, oppure l'anno d'ingresso della Romania nell'Unione Europea, sbagliato, l'età in cui in Europa si inizia la scuola, sbagliato, oppure alla domanda quando può il dirigente esercitare il potere di delega, la risposta che è disseminata nel librone 4 volte contiene 4 risposte diverse. Dunque, se si utilizza la risposta numero 166 si dovrebbe rispondere per specifiche e comprovate ragioni di servizio, mentre la risposta 200 prevede per economizzare il tempo, la 211 prevede il preside dovrebbe ottimizzare i tempi e così via. Insomma, risposte sbagliate, risposte confuse. E che si farà di questo concorso definito beffa? Forse andrà rifatto. Io vabbè, concludo, vi ricordo allora tra poco avremo ospite in studio il maestro Ermanno Olmi, che oggi esce con il suo ultimo film Il villaggio di cartone. Tra l'altro è un film che parla di valori attuali, parla dell'immigrazione, parla di rapporto con la fede, di rapporto con la carità. Oggi Giovanni Bazzoli, presidente del Consiglio di Sorveglianza d'Intesa San Paolo, fa un intervento sul Corriere della Sera, in prima pagina e poi a pagina 56, dal titolo Il primato della carità oltre la fede, un'opera d'arte ci indica la strada. È proprio dedicato al villaggio di cartone. Noi abbiamo chiamato Ermanno Olmi e l'abbiamo invitato qui, ha accettato di venire da noi anche per questa frase che lui ha detto: essere straricchi, essere ricchi sopra un certo livello è un crimine perché si sottrae ricchezza a molti. 24 mattino. Eccoci qua, sono le 8 e 22 minuti, cari ascoltatori. Allora, di cosa vogliamo parlare oggi? Oggi esce un film nelle sale italiane, si intitola Il villaggio di cartone. È un film la cui trama, io mi permetto di riassumere così, insomma, è il racconto di una chiesa dismessa e chiusa al culto che diventa per una notte il luogo in cui trova rifugio un gruppo di emigranti clandestini. Ma insomma, io l'ho detta in 5 parole, ma è un film carico di simbolismi, è un film che parla del rapporto con la fede, con la carità, dei valori, quali valori odierni, anche il valore o il disvalore, chissà, della ricchezza, del denaro. Beh, il regista è il maestro Ermanno Olmi, che oggi sono molto felice di poter ospitare qui con noi. Ermanno Olmi, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Negli studi di Radio 24. Buongiorno. Noi l'abbiamo chiamata, la vogliamo mettere a confronto con i nostri ascoltatori, con il nostro Oscar Giannino, che saluto. Oscar, buongiorno e benvenuto anche a te. Buongiorno a te e buongiorno al maestro. Evviva, caro Giannino. E allora, l'abbiamo chiamata, maestro, perché lei qualche giorno fa, e vorrei partire da qui, poi parliamo anche ovviamente del film, ha detto questa frase che noi abbiamo rilanciato, ha già fatto molto discutere i nostri ascoltatori sul nostro sito Facebook: essere straricchi, cioè essere ricchi sopra un certo livello, è un crimine perché si sottrae ricchezza a molti. Ecco, messa così è una frase molto pesante, un giudizio duro. Beh, ma noi non possiamo, come dire, evitare di porre giudizi quando sono duri, magari in qualche modo recano disagio a coloro che sono in qualche modo implicati in questo giudizio. Ma la storia, più che oggi la frase che io ho pronunciato, è la storia che in qualche modo dice in termini diversi la stessa cosa. Ecco, stiamo ai fatti più recenti. Pensate a quanto, ecco, è stato il, tutta la, come dire, la schiavitù, no? Fatta attraverso prepotenze, arroganze di forza fisica, del prelevare persone dai loro luoghi nativi e portarli come forza bruta in altre aree del mondo per produrre ricchezza. Allora, se queste forze brute avessero rispettato la condizione di sottoposti, non in condizione di schiavi, ma avessero condiviso con loro la ricchezza o qualche vantaggio, ecco, avrebbero delle attenuanti, ma la giusta parola è criminali. Quindi il problema è la ricchezza in sé o la redistribuzione della ricchezza? Ma diciamo, già quando la ricchezza diventa, come dire, una riserva aurea di solo alcune persone nel mondo o piccoli potentati, ecco, già questo riservare a se stessi un margine di ricchezza che riguarda appunto una, come dire, una sorta di quello che è la condizione del mondo, no? Che si parte da quanto serve per la sopravvivenza, sempre più, fino ad accumulare ricchezza che è togliere agli altri uno spazio vitale in certi casi. Oscar, si può fare una prima riflessione da qui? Ti ha colpito quando hai letto questa frase, essere straricchi è un crimine? Già le prime motivazioni che ci ha dato il maestro Olmi. Mi ha colpito perché mi ha fatto riflettere, come tutte le frasi che colpiscono duro su argomenti che siamo abituati nella vita di ogni giorno a considerare magari in maniera frettolosa, senza rifletterci. La ricchezza non è, ha ragione Olmi, non è solo qualche cosa con cui abitualmente siamo abituati di considerare cosa si compra. La ricchezza è un valore cristallizzato, cioè è uno strumento nel quale si denomina una speranza di futuro e si è accumulato anche, perché la ricchezza è così, si accumula, no? Di solito, nella stragrande maggioranza di coloro che le hanno, e si è cristallizzata una vita di sacrifici, di impegni, di progressi che hanno avuto successo, di prodotti nuovi. Allora, siccome c'è dentro il passato nella ricchezza ed è dentro lo strumento attraverso cui costruire il futuro, la frase di Olmi mi ha fatto riflettere in buona sostanza su due cose brevissime. La prima, ha ragione o ha torto Olmi quando ci fa riflettere sul fatto che come strumento per moltiplicare la possibilità di benessere, di felicità nel futuro, la ricchezza non è mai abbastanza ben distribuita? Su questo ha ragione. Se guardiamo al passato, secondo me, al passato del nostro paese, penso alla generazione di mio padre e di mia madre, quelli che hanno rimesso in piedi l'Italia dopo la guerra, il ventennio fascista. Ecco, quelli in 15 anni, la generazione di mio padre e mia madre, non avevano studiato, laureato, non erano laureati all'estero, non avevano patrimoni finanziari, le imprese erano in ginocchio. Quelli in 15 anni hanno costruito praticamente tutto quello che abbiamo in mano noi e che dissipiamo da un bel po' di tempo a questa parte. Cioè hanno fatto il più 550% in 15 anni del reddito nazionale. Allora, quella gente lì lavorava per il futuro. E aveva ereditato niente dal passato di ricchezza. Noi abbiamo molto ereditato di ricchezza, molto più di qualunque generazione prima di noi. Dovremmo essere grati, ma dovremmo capire che dovremmo fare come i nostri genitori, come i nostri nonni, e moltiplicarla per il futuro. Noi in questo paese non ci pensiamo più. Da questo punto di vista l'espressione crimine può sembrare pesante, a me non piace troppo, però la capisco. Perché è vero che tenere solo e dissipare la ricchezza che è prodotto del passato senza guardare al futuro significa sottrarre al futuro. Tra l'altro, ma da qui ripartiremo dopo la pubblicità, io vi voglio invitare 800 24 00 24, ai nostri ascoltatori, se vogliono porre una domanda a Olmi, a Giannino, a parlare di questo tema, della ricchezza, dei valori. Magari ripartiamo, Olmi, dopo la pubblicità, perché ne discutevamo prima, brevemente, prima di entrare in onda, della vicenda di Barletta, dove io ho detto c'erano degli operai che sono morti e guadagnavano 4 euro all'ora, e Olmi mi ha corretto dicendo 3,90 euro, perché 3,90 euro non è 4 euro in quei contesti. 24 mattino. Eccoci qua, le 8:34 minuti. Siamo con Ermanno Olmi, regista che non ha bisogno di grandi presentazioni. Oggi esce la sua ultima opera, Il villaggio di cartone, e con il nostro Oscar Giannino siamo partiti in questa discussione a parlare di ricchezza. Ricchezza o super ricchezza, che per Olmi ci ha spiegato perché è un crimine, perché vuol dire togliere ricchezza ad altri. Olmi, prima parlavamo brevemente di quello che è successo a Barletta. Lei in varie interviste di recente ha detto: siamo chiaramente al fallimento della società industriale, dove bisognerebbe recuperare gli unici veri valori, quelli delle società rurali, delle società contadine. L'episodio di Barletta, secondo lei, è un emblema di questo fallimento, a suo modo di vedere? Ecco, non vorrei che essere frainteso. Quando faccio riferimento al mondo rurale del passato, non faccio riferimento con sentimento di nostalgia a un ritorno a quelle condizioni, ma ciò che in quelle condizioni c'era come atto di giustizia. Voglio dire che dopo il grande periodo, diciamo, dei latifondi, dove c'erano i padroni e i cafoni che lavoravano la terra in condizione di schiavitù. Ecco, quando siamo usciti da questa situazione inaccettabile, perché la storia ha imposto dei cambiamenti, quindi quando si è aperta la via delle Americhe, per cui i contadini braccianti partivano nell'emigrazione, come oggi accade a paesi africani, i latifondi si sono trovati sprovveduti di braccia. E allora cosa è successo? Che hanno tentato di salvare il latifondo introducendo il sistema della mezzadria, per cui il contadino diventava un piccolo proprietario del suo podere. Ecco, questo modo di affrontare la distribuzione della ricchezza è nata da una necessità di mantenere degli equilibri di giustizia che consentivano ai padroni di avere ancora una valorizzazione delle loro proprietà e ai contadini di compiere quel salto di qualità per cui il loro lavoro veniva riconosciuto come un dato essenziale al processo economico. Secondo te, Oscar, è compatibile questo equilibrio di giustizia con la società industriale odierna? Certo che è compatibile, perché quello che ci dice Olmi è che quando le grandi masse sono entrate nella storia tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento in un paese come l'Italia, attraverso il movimento cooperativo, sindacale, socialista e cattolico, è ovvio che si determinarono grandi fratture, perché l'istanza della rappresentanza del lavoro di fronte agli interessi della mera proprietà e dell'impresa provocò crisi tali che poi, dopo la prima guerra mondiale, andammo purtroppo al fascismo come reazione. Quindi ha sacrosantamente ragione. Il problema qual è? Che ancora oggi, di fronte al ritardo di un'Italia che per metà o quasi, per il 40% non ha un mercato vero e per questo sfrutta il lavoro, non ci paga sopra le tasse, non ci paga i contributi, lo paga pochissimo. Bravo. In locali fatiscenti, come a Barletta. Bravo. Ecco, lì siamo veramente in condizioni in cui quello che ci dice Olmi è una specie di lezione, ma non del passato, tante volte bisogna dire una lezione del presente. Allora, non solo è compatibile, ma la realtà è che il mercato, l'industria vera, senza la rappresentanza e regole certe, non è né mercato né industria vera. Questo è il punto. Bravo. Di fondo. Quindi la cosa di Barletta ci deve spingere a non dimenticare quello. È chiaro che e vengo all'oggi, un conto è dirlo, altro è farlo. Per esempio la Fiat ha una visione leggermente diversa rispetto alla stragrande maggioranza delle altre imprese di Confindustria di come si tratta col sindacato. La FIOM dice no e basta, voglio le mani libere. E per 2 anni siamo stati lì a trattare e ritrattare, anzi fa l'accusa a chi poi ci ha rifatto le regole insieme, pur pensando diversamente, dicendo: vabbè, ma allora mi state intralciando. Questo per dire che i contrasti di come ci si siede ai tavoli e si decide, perché è ovvio che l'impresa dice: ma ci metto io i soldi, ci metto io gli investimenti, ci metto io i capitali, e in una condizione come quella dell'Italia del Sud, di cui non ci guadagno abbastanza, l'offerta diventa: o lavorate come dico io o non lavorate. una piccola parte dell'impresa, non dico tanta, ma fin troppa per quello che sarebbe giusto, e chi a quel punto si protesta e dice no, questo è un ricatto, rischia di lasciare la gente senza lavoro e con meno impresa, e questo purtroppo è ancora una realtà in troppa parte d'Italia, secondo me. Olmi, come si stabilisce, seguendo il suo ragionamento iniziale, la soglia della ricchezza tollerabile sopra la quale dobbiamo considerarla, secondo lei, un crimine, o sopra la quale manca quella giusta redistribuzione per la quale bisogna considerare tutto ciò un crimine? Lei ha detto quella giusta retribuzione. Redistribuzione, ecco, certo. Qui c'è già la risposta. Ecco, è chiaro che la giustizia non è soltanto un'istituzione. La giustizia è anche una virtù, la virtù di ogni singolo cittadino. Allora ciascuno di noi è in grado di capire dove può avere termine, diciamo, il nostro interesse personale e avere il sentimento di rispetto, che è un sentimento di giustizia, per la dignità dell'altro. Ma è una scelta individuale dell'individuo, oppure dovrebbe provvedere a questo l'istituzione? No, in una società davvero civile è la scelta di ogni cittadino che fa il livello di civiltà. Perché qui io vorrei venire anche ai temi che lei sviluppa nel film. In fondo nel film si parla di, come li vogliamo definire, i nuovi poveri, I migranti. Ecco. Si parla di questa scelta di un individuo, che è il parroco, che decide di accoglierli. E quando il sagrestano chiede: ma perché ha lasciato entrare questa gente nella nostra chiesa? Il parroco risponde: perché è una chiesa. La chiesa istituzione e l'individuo parroco che accoglie, anche questo, no, quando, è il senso. Ecco, diciamo che nel nostro caso, per le esperienze che viviamo, è chiaro che ci sono due chiese: c'è la chiesa istituzionale e c'è la chiesa, la micro chiesa dei piccoli parroci. Ecco, la chiesa è una casa, è la casa di tutti, e per il cristianesimo in modo particolare non solo la casa di tutti, ma anche dei nostri nemici. E quindi, come dire, se noi non consideriamo questo presupposto di cui Cristo è stato un sommo testimone, io non credo che si giungerà mai a una vera giustizia. Oscar, mi è piaciuta molto la questione della scelta individuale o delle istituzioni. No, perché sennò qua veniamo subito tacciati. Cosa volete? Reinstaurare il comunismo per cui tutti dobbiamo guadagnare allo stesso modo e non c'è la libera competizione? Oscar. No, l'individuo è per me la persona, insomma, è vero che è il metro di civiltà complessiva di un paese, perché quando si inizia a immaginare la libertà dell'individuo come l'oblio del fatto che il comportamento di ciascuno contribuisce a determinare un livello di civiltà, si finisce per trasferirlo anche nel comportamento privato a spese di quello pubblico, anche nella politica. La crisi del paese di questi ultimi anni è larghissimamente l'espressione, secondo me, di questa trasposizione, che dimentica un punto di fondo, che invece è tanto più il tuo contributo e la tua posizione più elevata nella piramide pubblica, perché i cittadini ti hanno dato fiducia e così via, tanto più anche la tua parte privata non è che deve venir meno al diritto di organizzartela come vuoi, ma deve essere coerente al profilo di credibilità pubblica che con i tuoi comportamenti nella parte pubblica della tua vita istituzionale. Ma c'è questa coerenza, perché si questa legge... coerenza, beh, se vuoi ti do la mia opinione personale, sì, certo. non c'è non da c'è. Troppo tempo, questa è la mia opinione personale. Bravo. Ma, sentiamo... ma no. Non c'è da troppo tempo. No, sentiamo anche Olmi, secondo lei c'è questa coerenza, perché si legge così, ma andiamo un po' anche nelle cose concrete, quando uno legge di cricche, cricchette, criccone, di storie. Lei vede questa coerenza, tanto più si è nel vertice apicale della classe dirigenziale, tanto più ci dovrebbe essere una responsabilità. Certo. Allora, quando prima dicevo che la giustizia, la parola giustizia fa riferimento a due realtà, quella istituzionale e quella appunto della virtù personale. Allora, ci sono delle giustizie che assolvono in termini di istituzione che regola la legalità, ma quanti che sono stati giudicati innocenti dalla istituzione sono però colpevoli davanti alla propria coscienza, e quindi spesso la legge assolve ma la coscienza no. Oscar. Spesso la legge assolve ma la coscienza no, è una di quelle cose che in effetti fanno rimbombare. Allora, temo che gli ascoltatori oggi rimangano un po', vedo gli sms che ci arrivano e molti dicono ma insomma sei qui, sei tutti d'accordo, è un concerto. No, ma... il problema non è quello, cari ascoltatori, si che dibatte vi su temi grattate un po' profondi, perché per una la volta, questione, no? Ma la questione è che magari la sensibilità del maestro è più vicina alla mia, ad altri filoni della storia della cultura italiana, io sono più individualista, liberista eccetera, ma il punto è che questi valori, se ci uniscono, come ci dovrebbero unire molto di più e come hanno unito in passaggi decisivi della storia dello sviluppo del nostro paese, perché poi gli italiani quando si sono trovati col fondo schiena per terra hanno dimostrato che hanno avuto la forza di unire, certo, i valori, certo. Questa è la forza vera di un contesto civile, questa, certo, è il senso della salute di una società che non va smarrita, la trasmettere ai figli. Allora, questa cosa che ai nostri ascoltatori un po' lascia perplessi oggi, che cosa mi dimostra? Mi dimostra che purtroppo il tribalismo contrapposto del dibattito pubblico italiano, per cui magari anche su valori come che cosa vuol dire la ricchezza, che cosa deve incorporare di futuro, dobbiamo dimenticarci degli altri, no, dobbiamo avere anche il senso della coerenza tra comportamenti individuali per fare giustizia con questi, nei nostri comportamenti individuali, e dare l'esempio, se su questo non fossimo d'accordo, maestro come Olmi è un umilissimo liberista come me, e asseconderemo forse molti dei nostri ascoltatori, ma il problema è che i nostri ascoltatori li abbiamo diseducati prendendoci a botte su ogni questione, e perché così muoiono i valori. Meno in radio che in TV, questo almeno. Sì, Oscar, ma non sto dicendo però, noi no, a questa, certo, radio. No, oggi, no, in genere nel dibattito pubblico c'è questa forte contrapposizione. Ma andiamo a sentire, allora, dobbiamo sentire le informazioni sul traffico. Poi un paio di domande. Insomma, io glielo voglio chiedere, Olmi. Se uno pensa a uno dei super ricchi in Italia, pensa a una persona, no? No, il nostro presidente del consiglio, no, però me lo dica tra un attimo, devo dare informazioni sul traffico. Allora, siamo nell'ultima parte della trasmissione, questo dialogo con Ermanno Olmi, che ci è venuto a trovare, siamo molto felici, negli studi di Radio 24 a Milano con il nostro Oscar Giannino, e con anche molti messaggi che però ci dicono, insomma, per esempio, maestro, glielo devo girare, scelta individuale, parole sante e pesanti, che condivido, quelle del maestro Olmi. Allora io le devo chiedere sulla ricchezza, quando vede la ricchezza odierna, insomma, cosa ne pensa del presidente del consiglio? Lei ne ha parlato in varie interviste, ma sì, ma le dirò che una volta mi faceva molto arrabbiare, ecco, questo suo atteggiamento, che trovava la forza soprattutto nei risultati della sua carriera nel mondo economico, dell'impresa, eccetera. E quindi, diciamo, questa ricchezza esibita con una sorta di quasi di sottile minaccia nei confronti degli altri, come a dire guardate che io sono potente, quindi attenzione a come vi comportate nei miei riguardi. Questo mi faceva molto arrabbiare. Ultimamente mi ha dato prima un senso di sconforto e poi addirittura provo un sentimento di pietas. Lo sento imprigionato dentro un bunker che lui stesso ha costruito, prima come tentativo di, diciamo, di difendersi da quelli che lui considerava i suoi nemici, e non ha calcolato che probabilmente in quel bunker, sotto l'aspetto di amici, ci sono i suoi veri nemici. Anche questa, Oscar, è un po' la storia del potere. Tu di recente l'hai raccontato, insomma, questa stessa metamorfosi a cui fa riferimento Olmi, no? Questa è la storia del potere di Berlusconi, come di molti altri potenti prima di lui, sotto ogni epoca, perché questa è una parabola del potere che ci consegnano anche dalle tragedie in greche in poi, come monito i grandi della letteratura, della storia e della filosofia dell'Occidente. Non è l'esito obbligato del potere, cioè il potere esiste ed è esistito e continuerà a esistere anche nelle mani di persone che non se ne inebriano e che continuano a misurare. Un tempo non c'erano le elezioni del consenso, fino all'altro ieri nella storia dell'umanità. Adesso, diciamo che da un po' più di 100 anni, si è esteso il novero dei paesi con cui il potere si esercita per consenso e deve rispondere al consenso. Ma ci sono stati fior di politici che hanno avuto in momenti straordinari della storia, ma anche nel nostro paese, fior di potere in mano, e che non hanno mai dimenticato, pur quando il potere che esercitavano aveva un'ampiezza e conseguenze incredibili sulla vita di milioni di persone, che dovevano poi alla fine renderne conto, e che il metro non era quello del successo personale. Io non credo affatto che esistano uomini immuni da difetti. Le persone, gli esseri umani sono intrisi di difetti, di passioni, di orgogli. Non sto descrivendo una specie di superuomo nel paradiso in terra, sto dicendo che la generazione, per tornare a quell'esempio che a me è sempre chiaro, perché a volte la notte mi sembra di non essere all'altezza neanche delle sole delle scarpe di mio padre e di mia madre, la generazione di mio padre e mia madre scelse uomini come De Gasperi, capite? Allora, in un'Italia che era veramente, la ricchezza era enormemente distribuita in maniera più iniqua di oggi, anche se oggi stentiamo a capirlo, ma all'epoca c'era la stragrande maggioranza degli italiani in condizioni di povertà, di sopravvivenza a che a stento si raggiungeva. Sì. Eppure quella generazione di uomini politici, anche lì con tutti i difetti e tutte le eccezioni, che cosa ha lasciato dietro di sé? L'immagine di una generazione che non viveva a 100 chilometri rispetto al resto della gente, d'altezza, con questo senso di orgoglio, di disprezzo. Purtroppo io capisco la pietas quando Olmi dice, non mi fa neanche più arrabbiare, oramai gli do comprensione umana, perché quando si assiste a un giorno come ieri in cui l'Italia è da 2 mesi che sta cadendo in verticale dopo sì. 15 anni che non cresciamo, e ti viene da dire come battuta, credendo con questo di suscitare ancora ilarità e consenso, forza gnocca, vuol dire che sei fuori oramai da un ambito in cui non c'è neanche più la polemica politica. Io lo dico con dolore, perché la prova di questi anni di questi signori priverà la gente che pensa come me che bisogna fare più mercato e meno spesa pubblica, concentrandola laddove davvero ci sono i bisogni sociali veri, mi priverà del diritto di essere credibile, e questa è la cosa che mi amareggia. E per questo io mi dico che le parole di Olmi dovremmo farle risuonare ogni giorno per 10 minuti. So che tanti non la pensano così. Giuliano Ferrara, per esempio, a questo insorgerebbe, bello, ci direbbe bello, che certo. Noi siamo dei miserabili, che noi facciamo i moralisti. Allora io dico che chi di fronte a questo ancora usa gli argomenti di Giuliano, che è un mio amico, non si rende conto, perché sta ulteriormente dando una mano alla damnatio memoriae di Berlusconi. La damnatio memoriae, che è la cosa che la storia riserva a personalità che con grande potere alla fine si inebriano, diventano matti, non hanno più senso alla misura e vengono consegnati poi in una specie di galleria degli orrori. Berlusconi non se lo meritava di essere consegnato in una galleria degli orrori, perché comunque qualcosa di buono ha fatto. Adesso è diventato oltre misura. La mia opinione è che nella generazione di De Gasperi saprebbero come fare. Non si tratta di incarcerare, si tratta di dire guarda, basta. Per concludere, Olmi, questo film appunto si concentra su uno dei drammi attuali, quello delle migrazioni e della migrazione e dei migranti. Anche qui il significato è voler dire il gesto individuale di una persona può aiutare tanto più dei gesti delle istituzioni, no? Quel gesto del parroco che accoglie. Lei come si pone di fronte alla reazione dell'opinione pubblica, anche molto emotiva, rispetto a questo tema della migrazione che c'è stata? Beh, ma noi, come dire, a un certo momento, per uscire da dei confini che in qualche modo impedivano quel continuo crescere in modo addirittura oltre ogni misura del mercato delle merci, ossia c'è stata la globalizzazione, che cos'è se non un fatto di ampliamento dei mercati. Scusate. Bene, quando accade questo, quando le merci percorrono tutti i sentieri dell'uomo, dei paesi poveri ai paesi ricchi, è chiaro che dietro queste merci poi fanno seguito masse di persone che nel luogo in cui si trovano non riescono più a sopravvivere. Quindi era inevitabile che con la circolazione delle merci si muovessero interi popoli, non più, come dire, disposti ad accettare un isolamento che la globalizzazione aveva già demolito. Ecco, quindi siamo noi in contraddizione, non loro, che si spostano. Io voglio ricordare Il villaggio di cartone, da oggi nelle sale cinematografiche, tra l'altro Ermanno Olmi, di Bergamo, Padania, piena Padania, no? Beh, io preferirei dire, come dire, serenissima. Serenissima. Allora, Oscar Giannino, ti lascio il microfono, ringrazio anche te, ovviamente anche tu parlerai in qualche modo di una persona che ha dato, ha accumulato tanta ricchezza, ma ha donato però lui anche l'ha, tanta l'ha prodotta ricchezza in futuro per tutti. Steve Jobs. Un uomo che ha rivoluzionato. Io voglio anch'io ringraziare Giannino, perché credevo, venendo qui, che avremmo avuto qualche piccolo scontro simpaticamente cordiale. E, ecco. e invece è stata veramente per me, dico in maniera sbagliata, una sorpresa per colpa mia, perché non per colpa adesso sua. Conoscendola meglio devo dirle, non voglio fare frasi ad effetto, grazie caro amico Giannino, un abbraccio maestro, grazie. Viva. Davvero, noi ci ritroviamo lunedì con Elisabetta Fusconi in redazione, Laura Faggin in redazione, Peter Bescapè l'alpino in regia, grazie davvero Ermanno Olmi, e noi ci troviamo lunedì.